lettere, dai fumetti al pop, viaggio intorno alla cultura disegnata. In studio, Fulvio Gatti. E potrei rimanerci secco subito qua per una sigla del genere. Avevo detto che era la prima volta che sentivo la sigla e potrei non avrei potuto non apprezzare, invece così vado subito in tilt, in brodo di giuggiole, in qualsiasi cosa. Io non ho ancora visto il trailer di episodio 7, vi rendete conto, non avevo la DSL a casa. Comunque, sono Fulvio Gatti, Fulvio The Cat su Twitter, queste sono solo nuvolette, come da bellissima sigla avete sentito. E oggi siamo un po' meno nerd del solito, o forse tutto è essere nerd, abbiamo vinto noi nerd. Quindi chiacchiereremo come chi bazzica sui luoghi digitali avrà saputo, grazie anche a una bellissima presentazione, quasi una card invito realizzata per l'occasione, che abbiamo qui in studio Nazarena Fazzari, scrittrice, traduttrice e conoscitrice della cultura cinese. Buongiorno a tutti, come dico sempre, ognuno è nerd a modo suo e io sono nerd per la Cina. Esatto, quindi hai già trovato, fantastico, mi hai già servito sul piatto d'argento il trade union, perché io, essendo sostanzialmente una persona molto curiosa, avendo apprezzato molto il tuo libro, mi è piaciuta l'idea di invitarti in studio, mi è piaciuta l'idea di spingerci un po' più in là nelle conversazioni solite, negli argomenti soliti, e già sappiamo che c'è anche un altro elemento che unisce, che ci porta a parlare dell'argomento. Il tuo libro si intitola Tre uomini fanno una tigre ed è uscito per Instar Libri, giusto? Esattamente. E un argomento interessante è che il primo legame che ti ha portato qui, che può essere un legame con l'argomento di questa trasmissione, è che tu hai approfondito lo studio della lingua cinese non tanto con i romanzi, ma... È vero, questa era una rivelazione che avrei preferito rimanesse riservata, però oramai l'ho già confessata a tutti. Siamo qua per spoilerare. Qui. D'altronde non si può parlare con un giornalista e aspettarsi che non la vada a raccontare in giro. Ok. Ebbene sì, confesso, io sono partita dai fumetti. Il cinese è una lingua veramente molto difficile. Chi ha studiato cinese o giapponese saprà che trovarsi davanti per la prima volta all'inizio un testo con soli caratteri ha un effetto psicologico assolutamente devastante. E quindi per iniziare a leggere mi sono appoggiata ai fumetti. Posso dire anche chi? Certo. Topolino. Ok, hai detto niente. L'ho trovato nelle librerie cinesi, e tra l'altro le librerie cinesi sono il paradiso per chi ama leggere, perché costa tutto pochissimo. Un libro in media è tra gli 1, 2, 3 euro massimo. Quindi di solito si torna a casa con le sporte ben piene di dizionari, di libri, e anche i fumetti hanno un costo medio di 1-2 euro. Quindi il viaggio in aereo, hai sempre bisogno poi di una valigia in più? E li spedisci, perché io sono okay. Spesso fuori peso. Ok, ok. Spedisci via posta e li leggi poi a casa 2 mesi dopo. Ah, ok, no, perché questo, essendo rientrato questa settimana dalla Bookmest di Francoforte, anche i cataloghi erano problematici come peso. E quindi figurati i libri, figurati dei dizionari. Ma che tu sappia, questa presenza così folta di libri anche e di basso prezzo, è per via delle alte tirature, il gran numero di pubblico, o esiste qualche altra ragione? Sicuramente quello è uno dei motivi, poi ci saranno anche costi di stampa ridotti, il costo della carta. Comunque i cinesi leggono veramente molto. È molto bello entrare in una libreria cinese e trovare le file di cinesi seduti a terra, o ci sono anche adesso delle aree specifiche attrezzate con tavolini e sedie, in modo che uno si possa sedere e leggersi di fatto anche tutto il libro, come se fosse una biblioteca. Ok, e i titolari questo non è problematico per i titolari, non ti cacciano via? Assolutamente no, anzi sono benvenute le persone che si siedono e danno una sfogliata ai libri un po' più approfondita. Ecco, okay. Però prima di arrivare in quel reparto mi sono fermata, come dicevo prima, a Topolino, okay. Che aveva un gran vantaggio. Era un personaggio che già conoscevo, la cultura non era molto distante, dovevo cercare di capire, male che vada, insomma, uno segue proprio le figure, no? Esatto, diciamo esatto. Così. E Topolino lo leggevo con molto piacere, perché iniziava tra l'altro con questo nome molto bello, Michi Lao Shu. Michi è la trascrizione di Mickey Mouse, e Lao Shu è la traduzione di Topolino, appunto Mouse. Ok, e suona poi completamente diverso, però alla fine è una traduzione letterale. È la stessa cosa, sì, okay. Esatto. E poi alla fine ho preso coraggio per iniziare a leggere anche altre cose, ho scoperto che il mondo del fumetto in cinese è veramente molto variegato, perché uno pensa si tratti solo di fumetti per bambini o quant'altro. Io allora ero assolutamente neofita nel fatto dei fumetti, pur leggendo avidamente quando ero bambina in italiano, insomma, Falda o Affini. e mi resi conto che in realtà in fumetto tu trovi buona parte della cultura cinese. Quindi ad esempio lo scimmiotto, che è un personaggio molto amato dai cinesi, che deriva da un classico della letteratura cinese, Viaggio in Occidente, trova la sua rappresentazione in fumetto. E così come una serie di altri grandi personaggi. Ultimamente mi sono innamorata di un fumettista taiwanese, Tsai Jujun, che in italiano ha pubblicato solo un testo per Feltrinelli, Dice lo Zen, e non ha avuto altro seguito, ma in realtà è un fumettista che vende moltissimo in tutto il mondo, perché lui ha messo in fumetto tutta la cultura cinese, quindi dalla filosofia ai più grandi romanzi al pensiero buddista, e spiega tramite il fumetto dei concetti molto difficili, e quindi anche una versione molto confortevole, no, di approcciarsi alla cultura. Esatto, assolutamente. Mi riconfermi uno dei capisaldi con cui a volte alcuni degli argomenti pro fumetto e cultura pop che sono molto forti a questi microfoni, che il fumetto è importante per avvicinare, è forse lo strumento comunicativo semplificativo di punta in questo momento. Il fatto stesso che un autore abbia cominciato, è abbastanza di recente che lui ha cominciato a scrivere, disegnare e pubblicare? No, oramai sono diversi anni. E quindi comunque abbia scelto questa forma, si sia imposto sul mercato, poi tra l'altro è molto presente sul mercato anglosassone, l'Italia ha avuto questa storia un po' strana per cui lui non è ancora arrivato, ma nel resto del mondo ha venduto parecchio, è abbastanza presente. Sì, già 10 anni fa si parlava di una tiratura mondiale complessiva di oltre 40 milioni di copie di libri. Hai detto quindi niente. Direi che hai vende molto. Quindi bene. Quindi ha saputo imporsi, ed è un po' la dimostrazione che il linguaggio del fumetto, che è semplicemente immagini accostate più le parole in una serie di convenzioni. Qui è curioso che comunque sfogliando parliamo di qualcosa di molto, si può effettivamente parlare di fumetto in quel caso, perché linguisticamente non è così distante dal fumetto occidentale. Sono andato in tilt per la banda di Mos Eisley, non ce la puoi, sarò per le rincoglioni, scusate nel francese, per le prossime 15 settimane, quindi d'ora in avanti parleremo di altro, trasformeremo in una trasmissione che parla di qualcos'altro. Ce la posso fare? Il discorso interessante di questo autore è che il linguaggio è comunque molto simile. Il linguaggio del fumetto di per sé è l'accostamento tra parole e immagini, ma in una serie di convenzioni che ne permettono una fruizione che è qualcosa di più del semplice presenza di testo con i diagrammi a fianco. Ed è per questo che in tante situazioni comincia a diventare interessante la saggistica a fumetti, che in realtà ti racconta determinati concetti, te li spiega, però te li spiega avendo già le immagini. E credo che sia qualcosa di molto simile a quello fatto dall'autore. Sì. Sì, sì. E nel suo caso poi c'è la semplificazione dell'inserire una narrazione. Sono quasi sempre, ho visto quelli di Confucio, ci sono delle frasi e in realtà lui ci costruisce una storiella intorno, giusto? Esattamente, dal momento che comunque i classici confuciani sono tuttora molto studiati, e c'è una riscoperta anche da parte del governo cinese nei confronti della tradizione e una promozione dell'idea confuciana, sono appunto ampiamente studiati, però di solito queste formulazioni sono in un cinese classico, quindi molto difficile. Cosa fa Tsai Jujun? Prende una di queste frasi note, celeberrime, veramente note a tutti i cinesi, e la racconta portando un esempio nel quotidiano, quindi trova un contenuto più vicino al lettore e spiega un concetto molto difficile in un modo molto semplice. Certo. Ha anche una produzione molto vasta questo autore, giusto? Sì, ha scritto veramente tantissimo. E non si è fermato solo a questa divulgazione, questa riduzione a fumetti di classici cinesi, ma sta facendo anche un altro percorso. Sì, c'è appunto, come dicevo, ad esempio una serie di sutra, ad esempio il Sutra del Cuore per quanto riguarda il buddismo. Abbiamo dei testi più specifici come l'Arte della Guerra, che adesso da noi va molto di moda. Pure troppo. Sì, quindi copre sicuramente vari settori del sapere. ed ha comunque già lui di suo un sapere enciclopedico, un personaggio sicuramente molto interessante. Poi io sono molto a favore delle persone che divulgano la cultura, tutto sommato tre uomini fanno una tigre, è il mio tentativo di divulgare, esatto, la cultura cinese. Esatto, infatti ne parleremo dopo. Secondo me, io da lettore sono stato molto colpito da questo titolo, perché intanto titolo azzeccato, copertina azzeccata, e soprattutto il desiderio di spiegare qualcosa che nei cui confronti viviamo un po' troppo di pregiudizi. Dopo la prima canzone ti faccio spiegare esattamente cosa significa tre uomini fanno una tigre, che di per sé è un po' la chiave di volta del testo. Però adesso lancerei la prima canzone. Ho fatto quasi una playlist easy listening oggi, cioè easy listening di classici del rock, parliamone bene. Quindi pianoforte, un certo pianista newyorkese direi. Il pezzo è... Alessandro, ci sei? Ok, scusa. Credo sempre che tu sia distratto, invece sei perfettamente concentrato. E il pezzo si intitola Don't Ask Me Why, e l'artista è Billy Joel. Solo nuvolette, dai fumetti al pop, viaggio intorno alla cultura disegnata. In studio Fulvio Gatti. George Lucas esiste, comunque grazie a lui abbiamo anche cosette come questo simpatico jingle, che è il miglior regalo che chi ha scelto, penso Cosimo o lo staff di Radio Archimede l'abbia scelto, è il miglior regalo che potessero farmi, quindi oggi sarò in tilt solo per questa cosa. Però io ho proseguito con la scelta musicale con Billy Joel, giusto perché cerchiamo di coccolare anche le nostre orecchie e andare a pescare quanto di meglio c'è dalla musica anglosassone, purtroppo nella mia cultura musicale, quindi sono un po' mirato, un po' nerd. C'è anche un'assonanza tra il mondo rock e il mondo nerd, e ci sono molti rocker che sono anche nerd, oppure semplicemente, come dice Davide La Rosa, anche i filosofi erano dei nerd, o come dice Nazarena Fazzari, qui ospite nostra, siamo tutti un po' nerd di qualcosa. Anzi, meno male che siamo tutti un po' nerd di qualcosa, perché vuol dire che abbiamo una conoscenza approfondita e abbiamo una passione, un interesse e qualcosa che vogliamo divulgare. Nazarena, hai scritto questo libro che si chiama Tre uomini fanno una tigre. E a monte c'è questa idea molto molto interessante di portare a conoscenza in una maniera divulgativa tutta una serie di aspetti del mondo della Cina, del mondo del business della Cina, tra l'altro anche spesso, che è quello che hai conosciuto direttamente, che conosci direttamente, al di fuori da tanti luoghi comuni. Tre uomini fanno una tigre è un detto di cui spieghi all'interno. Se vuoi raccontarci cosa significa, è anche il motivo per cui è stato scelto come titolo. Beh, sicuramente è molto rappresentativo. Io a un certo punto decido nel testo di dilungarmi molto su quello che sono alcuni proverbi cinesi. Io ho un grande amore anche per le parole cinesi, per come vengono formati i caratteri, okay. Ed è un qualcosa che tratto ad esempio spesso nel mio blog nazarenafazzari.it. Ok. E a un certo punto decido, visto che tra i luoghi comuni maggiori che riguardano la Cina, cioè quello che vede appunto i cinesi come grandi produttori di proverbi, okay. Sono andata ad analizzare una serie di modi di dire. E uno di questi, appunto, tre uomini fanno una tigre. È un proverbio, chiamiamolo così volgarmente, che deriva da un testo di una scuola legalista, quindi da un testo filosofico del III secolo avanti Cristo, ed è un monito diffidare delle voci, perché in realtà in quelle voci spesso sono nascoste delle non verità. Vi è una storia alle spalle di questo proverbio. Appunto, durante il periodo degli stati combattenti, nel corso delle negoziazioni tra due stati vicini, si chiese di mandare, diciamo, come pegno un principe che però venisse accompagnato da un dignitario di corte, il quale non aveva molta voglia di allontanarsi da palazzo perché era ben consapevole che in quel momento sarebbe cambiato tutto e i suoi nemici avrebbero fatto di tutto per metterlo contro il sovrano, cosa che accadde puntualmente. Prima di partire, quindi, lui tentò di parlare con il sovrano e lo mise in guardia contro queste voci, chiedendogli appunto: tu crederesti ad una tigre se qualcuno ti dicesse di averla vista? E il sovrano rispose: per una persona sola no, e se fossero due neanche per due, se fossero tre, beh, forse per tre persone potrei iniziare a pensare che sia vero. E questo è quello che succede spesso. Della Cina si parla molto, si parla ogni tanto anche un po' a caso e si dicono una serie di cose anche un po' strane, tipo che i cinesi non muoiano. Qual è la più clamorosa delle voci sui cinesi, sulla Cina, che possiamo smontare? Pam, entriamoci secco e diciamo: questa debunking, facciamo proprio debunking, questa è una boiata. Che i cinesi siano chiusi, ad esempio, okay. Noi li vediamo nelle loro comunità italiane, nelle loro piccole Chinatown, isolati dal resto del mondo. Okay. I cinesi sono un popolo veramente molto aperto, molto ospitali. Mi dicono molte persone che sono state in Cina, assomigliano un po' ai nostri meridionali. È vero, okay. Anche la cultura è molto vicina per certi tratti. Sono un popolo ospitale, aperto, molto disponibile, molto amichevole. Presumo che arrivare in Italia, trovarsi a 50 anni e dover imparare una lingua difficilissima come l'italiano non sia proprio tanto agevole. Se ci pensate, la grammatica italiana è veramente impossibile. Facciamo fatica noi italiani. Esatto, esatto. Ne stiamo perdendo dei pezzi per strada, si sta autosemplificando la lingua. Sì, il congiuntivo è morto, il esatto. Futuro sta sparendo. Esatto, esatto. E poi c'è tutta la distinzione tra l'uso del passato remoto esagerato che si fa al sud e l'assenza di passato remoto, perché noi 15 anni fa siamo andati noi piemontesi, sì, sì. quindi questo è un sud andai stamattina. Esatto. Quindi quello è una differenziazione anche geografica, però di per sé la stessa lingua italiana si sta semplificando. E questo è un altro punto interessante, però la lingua italiana è difficilissima. Quindi se per caso ci fosse una lingua franca tipo l'inglese, secondo te sarebbe più facile anche comunicare, per esempio queste comunità cinesi potrebbero più facilmente comunicare con noi, o di per sé è una lingua difficile anche quella, è comunque un altro alfabeto anche l'inglese? Sicuramente, però c'è già un'evoluzione in corso. Adesso i cinesi che noi troviamo, incontriamo nelle strade o abbiamo a scuola, sono già la seconda generazione. Okay. Quindi la difficoltà era all'inizio, esatto. Per quelli che arrivavano oramai con un'età avanzata, ma adesso noi abbiamo una comunità consistente di cinesi che sono o nati o comunque cresciuti, certo, in Italia e parlano italiano come me. Magari può anche essere buffo, non so se vi è capitato nelle interviste di sentire un cinese parlare con un forte accento romano torinese, che fa comunque sempre il suo effetto ancora, sì, abituati. No, sembra straniante, però di per sé tecnicamente quelle persone sono torinesi, romane, sono... E sempre, qui si va su un discorso ancora più ampio di cui, wow, della comunicazione dei migranti, del problema di integrazione, ma se finché continuiamo a considerare qualcuno diverso per il solo fatto che ha qualche tratto somatico diverso, ma in realtà è cresciuto nella nostra stessa città, vive negli stessi nostri luoghi, c'è qualcosa che non va, siamo noi che stiamo forzando a fronte di una diversità che in realtà non esiste. Mi viene in mente un romanzo di Andrea G. Pinkett, che era molto divertente, di un personaggio che entrava in un ristorante cinese e tre ragazzi cinesi si chiamavano Mario, Luca e Marco, e poi in realtà, vedendo entrare degli italiani, mettevano le musiche cinesi e si spacciavano e si davano dei nomi cinesi. Sì, c'è anche da dire che a volte succede il contrario, che i cinesi, per essere chiamati in qualche modo, si danno un nome italiano per, okay, aiutare noi. Io racconto ad esempio ogni tanto nel testo delle difficoltà di comunicazione soprattutto tra gli italiani e i cinesi. Io ad esempio avevo un capo italiano che faceva molta fatica a ricordare i nomi dei collaboratori cinesi, quindi c'era un poveraccio che si chiamava Wang Shijun, diventava qualsiasi cosa possibile tra Jiang Chunqin, Jiang Naolin, e ogni volta lui mi guardava perplesso e mi chiedeva parlando di me, vero? Perché qualsiasi suono che fosse un po' diverso dal solito poteva essere solo il suo nome. Beh, io ho abilmente glissato il nome dell'artista taiwanese, perché non credo che ci verrà un po'. Proviamoci. Tsai. Tsai? Zhizhong. Zhizhong? Sì, esatto. Tsai Zhizhong. Comunque un piccolo trucco. Okay. L'importante è ricordare la prima sillaba, perché quello è il cognome. Ah, ok. Quindi è inutile cercare di ricordare i suoni successivi che sono più difficili, però il signor Tsai va benissimo. Ah, fantastico. Quindi mi fai venire in mente, visto che sull'ampio... Però panorama della cultura pop, noi sbagliamo a chiamare la maggior parte dei registi cinesi importanti? Assolutamente sì. È fantastico. È terribile vedere il telegiornale e sentire questo povero Johnny Mou chiamato nei modi più impensabili. Ogni tanto c'è la tendenza a chiamarlo come se fosse francese, quindi diventa Jean Jimou, ma più spesso è Imou, ma Imou è il nome, quindi è molto scortese chiamare un cinese per nome, meglio il signor Jean. Okay. La prima sillaba è quella che conta. Okay. È vero che ultimamente c'è poi un po' di confusione, perché soprattutto gli scrittori che pubblicano in paesi anglosassoni tendono ad invertire per adeguarsi all'usanza americana di avere prima il nome e poi il cognome. Okay, quindi ogni tanto c'è un po' di dubbio. Quindi Murakami è qual è il... Murakami è giapponese. Ah, ok. Eccolo lì. Tampa clamorosa subito. Siamo a 15:25, quindi in realtà potevo fare danni prima, invece sono arrivato fin qui. L'altro problema è la confusione eterna tra Cina e Giappone, e non parliamo di Taiwan e Hong Kong. Non c'è niente da fare. Spesso succede che si confonda che cosa è cinese e che cosa è giapponese. Mi chiedono spesso, ma le geishe... No, le geishe sono, okay, giapponesi. Credo ci sia anche un motivo per cui questa confusione è così tanto diffusa. Perché siamo una banda di ignoranti, siamo una nazione di ignoranti. No, assolutamente. C'è anche una certa vicinanza culturale tra Cina e Giappone. Ad esempio, prima parlavamo di fumetti. Io mi posi tempo fa la domanda, ma manga è una parola giapponese. In cinese si dice manhua. Di solito quando il suono è abbastanza simile è probabile che siano gli stessi caratteri. Okay. Andando a confrontare ho visto che sono gli stessi caratteri. Okay. E succede una cosa molto strana. Il cinese inventa delle parole per un fenomeno. Ad esempio, manhua era stato inventato in Cina per un genere pittorico particolare, per uno sketch molto rapido, però in pittura. Il giapponese prende quella parola, la trasforma in qualcos'altro, quindi inventa i manga, okay, i fumetti, e la Cina qualche anno dopo riprende quella parola applicandola ad un contesto diverso. Quindi questa confusione ha un motivo di esistere, perché, certo, in effetti ci sono dei passaggi tra Cina e Giappone continui. Sì, ma tanta cultura si sviluppa attraverso passaggi anche tra le nazioni. Se andiamo a vedere che i Magnifici Sette... film di John Sturges è il remake di un film di Kurosawa, I Sette Samurai, la figura del cowboy e la figura del samurai non sono così lontane. E poi lo stesso George Lucas, e qui mi toccava, è andato a riprendere The Hidden Fortress di Kurosawa, un altro film di Kurosawa, e i samurai, i Jedi, non so, i cavalieri Jedi, non sono dei samurai con le spade laser, sì, il codice Jedi, quanto mette il codice Jedi la forza, quanta disciplina orientale c'è, a quanto ha attinto Lucas di Oriente per creare il concetto della forza, dei Jedi, le prediche scambiate per le parole del maestro Yoda. E quindi tantissima cultura nasce dalla contaminazione. Assolutamente, ma alla fine la cultura è mondiale, non può essere limitata ad una sola cultura. Ed è molto divertente, ad esempio, quando uno inizia a raccontarsi le barzellette nelle varie lingue o delle storie, e tutto sommato quelle, ci sono delle barzellette che magari non si prestano ai giochi linguistici, ma hanno solo un gioco sui contenuti, quindi non interviene un problema di traduzione. Sono più o meno le stesse dall'Australia all'America, passando per Cina e Giappone. Ho trovato delle barzellette davvero molto simili. Se ci pensate è curioso, ma alla fine la cultura circola ed è giusto farla circolare il più possibile. E a maggior ragione la barzelletta penso che sia la forma zero della comunicazione orale. Sì. Qualcosa di molto breve, molto sintetico, pensato per far ridere e perciò più memorizzabile. Non c'è una barzelletta terribile su noi italiani in Cina? No, non ci disprezzano, in realtà ci amano molto, l'Italia è molto studiata e conosciuta dai cinesi, il cinese medio conosce veramente tantissimo della Cina, dell'Italia, con a volte alcune confusioni dovute dalla lingua. Mi ricordo che una volta fui veramente sul punto di morire dal ridere quando il cinese mi chiese se la torre di Pisa fosse composta da pizze, perché in cinese suona uguale, Pisa, e quindi la torre di Pisa lui l'aveva interpretata come se fosse una torre di pizze, diciamo. Vabbè, a voi piace molto la pizza. Sarebbe stata un'idea di marketing mica male. Secondo me all'Expo l'hanno fatto qualcosa del genere, visto che tanto... Qualcuno lo copierà come idea, forse. Esatto. Quindi questo è già un frainteso, però in qualche modo ottimista, nel senso che crede che ci sia una valorizzazione di un prodotto tipico. Sì, è un'associazione un po' particolare. Un'associazione mentale un po' particolare. Altre situazioni buffe che ti sono capitate? Le barzellette, qualcosa in cui una barzelletta in cui è cambiata clamorosamente, di cui trovi, oppure, molto anche interessante, il discorso dei proverbi nel tuo libro. Hai trovato dei proverbi che in realtà non sono così lontani tra quello cinese e quello italiano? Sì, ho cercato di trovare i punti in comune e ho cercato di trovare ogni tanto l'equivalente italiano e di vedere a volte le differenze. Sì. E quello è veramente particolare. Mi ricordo, a proposito di fraintendimenti o situazioni un po' buffe, mi capitò una volta di trovare, ero in un negozio di dischi che stavo valutando un acquisto, e un signore stava smadonnando contro il povero impiegato perché non riusciva a trovare O Sole Mio, di cui vanno matti, cioè tutti i cinesi sanno cantare O Sole Mio, in un modo in cui magari non è assolutamente intelligibile per noi, però la melodia si riconosce. E il povero signore non riusciva a trovarlo semplicemente perché era stato tradotto male il titolo. Quindi invece di trovare O Sole Mio c'era un'altra traduzione, ed ebbe il piacere di poter intervenire, perché la bellezza di conoscere due lingue è quella, no? Quindi aveva di poter intervenire e aiutare. Quindi era sbagliata la scelta dei caratteri cinesi in cui era messo il nome. Sì. Sole Mio. Era proprio sbagliato il titolo, e loro vanno matti anche per Pavarotti, ci sono diversi CD in giro. Non oso immaginare O Sole Mio in cosa si fosse trasformato. O de Taiyang, O Sole Mio. Ah, ok. Il mio sole. Ah, no, sì, era giusto. Ah, ok. No, ma nella traduzione sbagliata, in che cosa? No, avevo preso un'altra parte della frase che non era il titolo corretto, okay. Quindi lui non riusciva a identificarlo. Ok, no, certo, ma sono certo. Molto curiosi, molto interessati. E poi parlavo prima di questa apertura. Vengono comunque a cercarvi in giro nelle città cinesi, hanno molta voglia di sapere cosa fate nel vostro paese, com'è di diverso da loro, vi chiedono confronti continui. E adesso hanno iniziato a viaggiare. Vedrete sempre più cinesi, credo, nelle nostre città, e stanno viaggiando perché è cresciuta tantissimo la classe media cinese, come ho avuto modo di verificare quest'estate. Sono tornata in Cina dopo un annetto e l'ho trovata cambiata enormemente. E si sta muovendo così tanto quell'economia che tu ti accorgi dei cambiamenti socio-economici in un anno? Di solito si dice che chi si allontana dalla Cina da 6 mesi ha già perso un po' il polso della situazione. Beh, sono cambiamenti veramente notevoli. Ma in questo specifico momento della loro storia i cambiamenti vanno così veloci o di per sé? Io da quando mi occupo di Cina che noto queste differenze, non so, sono arrivata in Cina per la prima volta alla fine degli anni 90 e lavorando come interprete avevo il mio libretto in cui tenevo tutti i biglietti da visita con i locali di Pechino dove poter portare l'ospite, dove accompagnare per gli acquisti o i locali. Certo. E da una volta all'altra non trovavo più niente, quindi era assolutamente inutile tenere quei biglietti da visita perché 2 mesi dopo quel posto non ci sarebbe più stato. Quindi sono molto abituati al movimento, ecco. E c'è anche un'idea che quello che dicono che è un problema per noi italiani, mentre più nella cultura americana, anche la molta mobilità nel lavoro. La Cina è immensa come superficie, c'è anche più mobilità nel lavoro oppure no? C'è meno mobilità da un altro punto di vista, nel senso che il governo cinese cerca di tenere sotto controllo gli spostamenti della popolazione, perché vorrebbe dire lasciarlo libero, fare in modo che 1,5 miliardi di persone si concentrino tutte nelle stesse 2-3 città e quindi questo creerebbe uno squilibrio notevole. Allora il governo cinese, che è comunque molto lungimirante, cerca di sviluppare l'economia in loco e sfavorisce gli spostamenti di popolazione, anche se poi questo non è del tutto controllabile. Vi sono ad esempio dei settori in cui è inevitabile che le persone si spostino per lavori stagionali. Facciamo un esempio: a Pechino viene costruito un complesso residenziale gigantesco, c'è bisogno di 200 persone che vengono dalla campagna e si trasferiscono a Pechino per quei 2-3 mesi, quanto ci può volere per costruire il tutto. Sì. E però quindi, vabbè, ma quello numericamente non fa rispetto ai numeri della Cina 200 persone? No, però la popolazione fluttuante, così si chiama, sta diventando un po' un problema. Sta diventando un problema anche perché sui numeri si dice ad esempio che Pechino abbia 15 milioni di residenti e poi ce ne siano più o meno altrettanto tra turisti e pendolari. Quindi è uno spostamento non da poco sulle numeriche. Sì. E dal punto di vista delle infrastrutture però sono in grado di gestire i pendolari una presenza di quasi altrettanti persone che lavorano a Pechino rispetto agli abitanti, come treni, come allora bus. I mezzi pubblici in Cina sono splendidi, se posso permettermi di parlare dei treni cinesi che sono assolutamente in perfetto orario la maggior parte delle volte, non cambiano l'orario da invernale estivo, rimane tendenzialmente lo stesso perché sennò sarebbe il caos più totale. Okay. Però raramente ho visto dei ritardi nei treni. E per le distanze, all'inizio quando prendevo io il treno c'erano dei treni assolutamente antiquati con le gabbie di galline, e i sacchi di farina, mentre invece adesso sono dei treni di altissimo livello, molto belli, veloci, vanno ad una velocità media di 300 km orari, sono comunque dei treni molto avanzati e comunque problemi di ritardi ne ho avuti sempre pochissimi. Per i pullman, gli autobus, invece la situazione è un pelo più drastica perché magari sono un po' più vecchiotti, si fermano di più. Comunque la rete è molto ampia, funzionante con qualche ritardo, ma ad esempio gli scioperi sono assolutamente illegali perché se si fermasse il sistema dei trasporti veramente la Cina sarebbe paralizzata. Ok, questi punti di vista su una cultura che su cui a volte abbiamo un po' troppe luoghi comuni o ci basiamo un po' troppo sulle voci, sui tre uomini, il terzo uomo che ha convinto l'imperatore dell'esistenza della tigre. Torniamo a parlare di questo, torniamo a parlare di Tre uomini fanno una tigre di Nazareno Fazzari dopo la canzone. La prossima, questa settimana sono molto sul rock classico. La parola giusta è classic rock. Non ho mai messo un pezzo degli Who perché aspettavo il momento giusto è arrivato a quanto pare, e quindi direttamente da Tommy la canzone Sally Simpson. Tommy were worlds apart. But her mother said, never mind, your part is to be what you'll be. someone was coming to me and love will find a way. So Sally decided to ignore her dad and sneak out anyway. She spent all afternoon getting ready and decided she'd try to touch him. Maybe he'd see that she was free and talk to her this Sunday. She knew from the start deep down in her heart she and Tommy were worlds apart. But her mother said, never mind, your part is to be what you'll be. She arrived at six and the place was swinging to gospel music by nine. Group after group appeared on the stage and Sally just sat there crying. She bit her nails, looking pretty as a picture right in the very front row. Then a DJ wearing a blazer with a badge ran on and said, here we go. The crowd went crazy as Tommy hit the stage. Little Sally got lost as the police bossed the crowd back in a rage. Soon the atmosphere was cooler and Tommy gave a lesson. Sally just had to let him know she loved him and leapt up on the rostrum. She ran across stage to the spotlit figure and brushed him on the face. Tommy whirled round as a uniformed man threw her off the stage. She knew from the start deep down in her heart she and Tommy were worlds apart. But her mother said, never mind, your part is to be what you'll be. The chair and blood trickled down, mingling with her tears. Tommy carried on preaching and his voice filled Sally's ears. She caught his eye, she had to try, but he couldn't see through the lights. Her face was gashed and the ambulance men had to carry her out that night. The crowd went crazy as Tommy left the stage. Little Sally was lost for the price of a touch and a gash across her face. She knew from the start, deep down in her heart, that she and Tommy were worlds apart. But her mother said, never mind, your part is to be what you'll be. Sono solo nuvolette, dai fumetti al pop, viaggio intorno alla cultura disegnata. In studio, Fulvio Gatti. Che fa le facce quando sente la musica. Sì, vado fuori, oggi vado fuori. Grazie a Nazarena Fazzari, ospite di oggi, che ha già capito quanto questa sigla mi piace poco, pochissimo. Quindi la miglior, il miglior attestato di stima da parte di Cosimo e di Radio Archimede per avermi fatto questa sigla, fantastico, fantastico, fantastico. Però non ho ancora visto il trailer di episodio 7, quindi questo magari rimarrò deluso, perché tu non sai che noi nerd abbiamo questi riti. George Lucas ha venduto Star Wars e di per sé è stata una catastrofe. L'ha venduto alla Disney, potrebbe essere una cosa bella? No, non so. La cosa più importante è che adesso faranno di Star Wars la stessa cosa che stanno facendo dei supereroi. Quindi uscirà un qualsiasi cosa su Star Wars, un film all'anno, un... Beh. E vedremo se resisterà all'exploitation, l'eccessivo sfruttamento, se o diremo, noi stessi nerd, o diremo per primi quello che... quello con cui siamo cresciuti. No, non credo. Non credi? Vabbè, vedremo. Ne riparliamo tra qualche anno, facciamo un'altra trasmissione e vedrai che sono solo guerre stellari, la chiameremo. Ah, ok. Vabbè, quello sarebbe ancora più di nicchia e sarebbe ancora più problematico per i limiti e le cose che riuscirei a mettere dentro comunque come argomento pur parlando di guerre stellari. Quindi, eclettismi che un po' fuoriescono, esondaggi. Ma diventano un po' dei miti, no? Ci sono, c'è questo tormento. Ricordo quando ero piccola c'era Hello Kitty, che io già odiavo, e adesso è ritornata. Adesso noi abbiamo Peppa Pig. In Cina c'è la pecora. No, scusa, Yang. C'è un bombardamento. Provo a spegnere il telefono io. Cosa succede? Perché c'è un sacco di interferenza. Ah, ok. C'è la pecorella Yang Yang, che è piuttosto antipatica e molto estremamente intelligente. Ah. E anche lei è oggetto, insomma, di trasformazioni in tutti i gadget possibili e immaginabili. E quindi. Sì, poi facciamo diventare i bambini dei nerd e siamo tormentati a nostra volta. Forse si sono accorti, questa è la teoria più cattiva, il fatto che il nerd è quello che consuma di più, quindi stanno nerdizzando la cultura. È una cosa, è un piano marketing, altro che New World Order, trasformazione in nerd dell'universo. E parlando, stiamo divagando completamente. Nazarena Fazzari, sei autrice di questo bellissimo libro che Tre uomini fanno una tigre. E tu volevi leggerci un passaggio, giusto? Sì, uno dei temi che a me hanno sempre incuriosito molto è appunto il tema della comunicazione. Come avviene la comunicazione tra due culture molto diverse? Bene, succede di tutto. Noi abbiamo dei cinesi che tentano disperatamente di parlare l'inglese, ogni tanto con dei risultati un po' strani. Ad esempio, voi andate in un pub e vi chiedono se volete uno snake, un serpente, ma in realtà quello che il cinese vi vuole chiedere è se volete uno snack, che è una cosa molto diversa. Pensate che i cinesi mangino cose stranissime, spesso è solo un problema di traduzione. Ok, ma o di pronuncia. Giusto, perché adesso non è che siamo solo poi noi italiani che non parliamo bene inglese. Settimana scorsa, entrando allo Bookmess, mi è stato chiesto se avevo qualcosa. Anything sharp. Volevano sapere se avevo qualcosa di appuntito. Poi in realtà ho sorpreso e fatto ridere la ragazza dei controlli, perché ho aperto lo zaino e le ho detto paper everywhere, citando, anche parafrasando Samuel Taylor con in realtà dagli Iron Maiden. E la ballata dell'antico del vecchio marinaio è water everywhere, che io, essendo un nerd, ne so l'esistenza solo grazie agli Iron Maiden, che non abbiamo messo nella playlist di oggi. Che peccato, recupereremo. Sì, quindi parlavamo di comunicazione. Ah, ok. È bello che dovrei io tenere la traccia della trasmissione, invece tu mi recuperi perché mi perdo. Okay. Ho visto che hai vissuto in un modo un po' scioccante la musichetta. Secondo me invece è graziosa, questo stacco un po' così, pop. No, la musichetta. La musica iniziale, sì. La sigla è meravigliosa. Ah, ok. No, mi piace. Sì. Ok, è solo l'adeguamento ai nuovi ritmi. E dunque, parlavamo di comunicazione. Quello che succede, quello che intendevo è, per carità, le problematiche ci sono per tutte le lingue, non sono solo gli italiani che parlano male le lingue, per carità, un francese, un tedesco, un inglese che provano a parlare inglese, cinese non hanno risultati migliori dei nostri. E succede un po' di tutto, perché le parole cinesi poi sono molto corte. Ok. E all'inizio è molto difficile ricordarle, perché se tu hai una sillaba e quella sillaba vuol dire 10 cose, la pronunci più o meno in quel modo lì, però più o meno vuol dire che è un'altra cosa. Quindi magari vuoi da McDonald's che ti facciano un pacchetto da portare via e la stai mandando a stendere perché le dici un'altra cosa. Ok. E quindi ci sono delle situazioni un po' buffe che si vengono a creare. E ho visto poi comunque scene di isteria da parte di persone che tentavano disperatamente di comunicare con i cinesi. Ma io direi, non disperate, non preoccupatevi molto. Comunque i cinesi sono sempre quelli che dicevo prima, che vi vengono incontro, che sono curiosi, che hanno interesse e trovano i loro modi di capirvi. Posso raccontare allora questo episodio? Assolutamente. Siamo a Pechino, in una zona vicino allo stadio, Sunny Tour a Pechino. Un norvegese doveva andare allo stadio, area attorno alla quale ci sono diversi pub. Provò a spiegarlo e capì che non si sarebbero mai capiti. Mimò con indice e medio un calciatore che corre, si ferma e tira con il destro, con tanto di esultazione per il gol. Il tassista si grattò la testa. Allora il norvegese fece il gesto di bere da una bottiglia. Il tassista piegò la testa da un lato. Decise quindi di cambiare strategia. Disse semplicemente il nome del calciatore più famoso del mondo, Maradona. Maradona? Volle conferma il cinese. Il norvegese annuì e il tassista si illuminò. Il passeggero rimase in dubbio per qualche minuto, ma quando vide lo stadio in lontananza, fece un segno universale, quello del pollice sollevato. Ok, quindi alla fine il, nella comunicazione... No, aspetta, perché devo dare senso io? Dammi tu, spieghi. C'è sempre una via d'uscita. Ok. Ma mi dicono tutti, ma per te è facile, vai in Cina, cinese lo parli. Sì, è vero, ma io ho viaggiato molto. Sono finita in Vietnam, in zone dove era assolutamente impossibile per me comunicare con chiunque. Mm-hmm. E avevo scoperto questo ritorno alla... essenzialità della comunicazione, quindi andare per i disegni, okay. Quindi al mercato se volevo una banana disegnavo una banana, ho scoperto di non essere molto brava a disegnare, ma comunque si trova un modo per comunicare. Lo stretto indispensabile per comunicare eri riuscita? Si riesce. Ok, in questo viene in mente un in Hyperion di Dan Simmons, che è una delle più importanti saghe di fantascienza moderne, c'è questo personaggio che regredisce a causa di un incidente sull'astronave, regredisce a 5 o 6 vocaboli, ed è una parte anche molto divertente perché è scritta con raccontando come questo personaggio sopravvive ugualmente con quei 5 o 6 vocaboli. È un gioco ironico. Poi il problema, questo è scritto normalmente, poi ci sono anche gli scrittori di fantascienza o gli sceneggiatori di fumetti che effettivamente scrivono delle storie intere utilizzando 5-6 vocaboli. Non è una cosa leggibile, però lo so che dire che trovi leggibile qualcosa di Alan Moore, sarò crocifisso da tutti i nerd del fumetto, però Alan Moore è il più importante sceneggiatore, non è il più importante, uno dei più importanti, Watchmen, che è andato anche al cinema, eccetera. E riguardo a questa storia specifica sulla comunicazione, ci sono altri aneddoti, altre situazioni con cui hai avuto a che fare, che hai riportato nel libro, in cui in realtà non era la comunicazione era complicata perché si cercava di dire esattamente quel concetto quando magari ci sarebbe stata una semplificazione, un'immediatezza, come in questo caso Maradona. Io racconto spesso i miei capi, uno perché sono stata la prima italiana sfruttata da un capo cinese, okay. Quindi sicuramente è stato molto interessante per me lavorare in un'azienda composta interamente da cinesi con il capo cinese, e lì ne racconto di belle. Poi, avendo lavorato in Cina per un'azienda italiana, ho avuto anche la possibilità di avere un capo italiano. E anche lì era interessante il modo in cui lui tentava di comunicare con i locali. Mi chiedeva nel tragitto dall'azienda a Pechino di dargli delle lezioni di cinese, e quindi ogni tanto si lanciava nel tempo libero in queste parole, però dicevo prima che essendo molto brevi è facile confondere. E mi ricordo che una volta arrivavamo prima al ristorante, stavamo aspettando degli ospiti, e si avvicinò una ragazza chiedendo se nel frattempo avevamo piacere di prendere qualcosa da bere, e lui si girò tutto serio e le disse: stronza. Momento di gelo. La ragazza mi guardò terrorizzata e mi chiese in cinese: ma che ho fatto? Volevo solo portargli da bere. E io in realtà non sapevo assolutamente come interpretare, perché poi alcuni dicono che i cinesi non capiscono perché fanno finta di non capire. No, vi assicuro che a volte è veramente difficile capire che cosa sta tentando di dire uno straniero. Okay. E quando gli chiesi: ma cosa volevi dire esattamente? Lui mi rispose: la Sprite, perché ovviamente anche tutti i nomi stranieri hanno una trascrizione, la Coca-Cola, okay. È Coca-Cola. La Sprite è Shuebi, e lui si era confuso tra Shuebi e Shabi, che però è un significato molto molto diverso. Ok. Quindi episodi del genere succedono di continuo, e vabbè, ci facciamo sopra una bella risata. D'altronde bisogna prendere anche le cose con un po' di leggerezza. Esatto, è quello che sei riuscita a fare in questo libro: avvicinare alla cultura, far scoprire tutta una serie di aspetti della cultura con ironia, attraverso tutta una serie di episodi. Mando ancora una canzone e poi avremo l'ultimo quarto di trasmissione, che cerchiamo di usare il meglio possibile, perché vedrai che l'ora sembra lunga, ma in realtà passa velocissima. Tom Petty, Learning to Fly. Well, I started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down as I crossed the hill. And the town lit up. The world gets still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. I'd return. And the rocks might melt, and the sea may burn. Solo nuvolette, dai fumetti al pop, viaggio intorno alla cultura disegnata. In studio Fulvio Gatti. E comunque Han sparo sempre per primo, questo lo so, significa qualcosa per noi nerd. George Lucas ha, nelle varie versioni di Star Wars, ha cambiato il fatto che Han Solo nella versione originale sparava per primo e quindi era un cowboy, e poi in realtà, addomesticando la cosa, uccide, invece è lui che spara per legittima difesa all'alieno cattivo. In realtà Han spara per primo perché è un cowboy e quindi spara per primo. Vabbè. Sto imparando un sacco di cose oggi. Molto utili, soprattutto poi grazie tutto a cui. Tutto è utile. Sì, vabbè, ok. Sono tutti riti, sono tutti luoghi comuni, piccole idee, spunti che sono un po' per nerd sono cose moderne, per gli antichi sono le superstizioni, e c'è anche tutto il discorso di numeri. Quindi tu non sai neanche perché il 42 è il numero più importante dell'universo, giusto? E quindi no, in realtà mi si taglia probabilmente quando ha tirato fuori che voleva avere nel 42, in realtà era un messaggio in codice per tutti i nerd, perché 42 è il numero, è la risposta alla domanda sulla vita, l'universo e tutto quanto, almeno secondo Douglas Adams nella Guida Galattica per Autostopisti. Io sono per la risposta, non so se hai visto girare sulla rete, sono giapponese. Ah, quello ok. Che poi lì, quello purtroppo ha qualcosa di molto più triste dietro, in realtà dice assumi giapponese, un disoccupato giapponese. Secondo me dice proprio sono giapponese, ah, okay. Provate a risentirlo. Ok, ma... ok, e quello è un'altra cosa che ha creato un meme su internet. E in quanto a meme, in quanto a superstizioni, c'è tutto un discorso di numeri legati alla cultura cinese che è molto divertente. Sono il popolo più superstizioso del mondo. Ok. E bisogna farne conti, perché magari ogni tanto voi pensate, o qualcuno prova a vendervi, che in realtà la Cina oggi non è più così. Non è vero, la Cina oggi è ancora così. Se voi andate a comprare banalmente una SIM per il vostro telefono, vi viene dato un elenco di numeri con dei prezzi diversi. E quella è la cosa più interessante, dice, ma perché ci sono differenze anche sostanziali tra un numero e l'altro? ama uno all'8 e l'altro al 4. Quindi il 4 in Cina è un numero che porta male, per dirla come si dice nel gergo comune, perché suona come morire. E questa assonanza è veramente determinante nel definire se in alcuni posti ci sarà il 4 o meno. Nell'ascensore di solito manca il 4 e tutti i suoi multipli. Quindi ci sono una serie di piani in meno, il 4, il 14, il 24, il 34, il 44, per carità. Non esiste proprio. Mentre invece per l'8 si fanno carte false. Avere le targhe, parlavamo prima del capo cinese, Lao Ban si dice in cinese, il Lao Ban, proprio il big boss. È colui che ha tanti 8 sulla targa, perché se li può permettere, li paga. L'8 sulla targa della macchina si paga, come si pagano gli 8 nei numeri di telefono. I cinesi ci tengono tantissimo a questa numerologia. Tra l'altro, sai quando sono state le Olimpiadi a Pechino, no? Sì. 2008, agosto, mese 8. Quindi in realtà hanno pilotato la cosa per fare in modo che fosse quella data lì esatta, beh certo. Ma credo che avrebbero fatto di tutto per avere le Olimpiadi quel giorno, giusto? Giusto. E poi una cosa che potevano invece notare solo i nerd, allora il giorno non era l'8, attenzione, ma il 16. Perché? Perché è 8 per 2, okay. Quindi il doppio 8, i cinesi dicono che le cose buone vengono in coppia, quindi il numero doppio porta ancora più fortuna. Quindi però io 8 è il doppio del 4, quindi uno le regole le fa funzionare come vuole. È sempre un angolo di mondo, ognuno decide che cosa vuole vedere. Ecco, infatti, cioè. Che potrebbe essere doppio di 2, cioè possiamo andarla a guardare all'infinito. E una cosa che stanno solo i nerd, o che hanno notato solo i nerd, è l'ora in cui ha avuto inizio la cerimonia di apertura delle Olimpiadi, che erano le 8.08. Quindi non solo è stata voluta a tutti i costi, ma comunque la simbologia è rimasta, è stata comunque evidenziata al massimo. E tra l'altro il 2008 è un altro anno importantissimo per la Cina, perché nel mese di agosto si è assistito ad un grandissimo numero di parti cesarei. Potendo avere pochi figli, una volta era un figlio solo, adesso ci sono una serie di concessioni aggiuntive, quindi si possono avere anche due figli. Diciamo che la famiglia tiene molto che nascano nel momento giusto, in un momento particolarmente favorevole, e l'8 è una data importante. Perché non avere un figlio che è nato l'8? Come si fa a garantire? Beh, semplicemente con il parto cesareo. Sì. Quindi basta prenotarsi per tempo in ospedale, e gli ospedali hanno registrato un grandissimo boom di nascite nel 8-8-2008. Ma questa cerimonia delle Olimpiadi che è iniziata alle 8.08, ma se all'ultimo degli inservienti scivolava l'avrebbero... No, il governo cinese non gliel'avrebbe mai permesso. Ecco, infatti. No, assolutamente. Poi a quel punto c'è un concertare di energie verso un unico obiettivo, e per... insomma, questa figura gloriosa della Cina. Certo, sì. Chiunque avrebbe contribuito dando il massimo. Ecco, probabilmente il punto è quello. Chiunque riteneva importante che la cerimonia iniziasse esattamente a quel minuto. Esattamente. E però se fosse cominciato un minuto prima, ma no, un minuto prima non puoi. Ma vabbè, comunque sono riusciti a fare... Già il fatto stesso che ci siano riusciti la dice lunga... Non sono riuscito ad arrivare io in orario oggi, avevo un appuntamento alla stazione alle 3, sono arrivato alle 3:15 perché il treno si è fermato, quindi mi piacerebbe riuscire a fare qualcosa in tutti in sincrono in tutta Italia, sarebbe probabilmente l'impresa impossibile. Vabbè ogni popolo ha le sue, ogni popolo ha le sue peculiarità e caratteristiche. E, come vedi, l'ora temevi che fosse lunga, invece è belle che è finita, quindi ci rimane qualche minuto per dare qualche coordinata spazio-temporale. Il libro si trova e si può ordinare in libreria, penso Tre uomini fanno una tigre. Sì, assolutamente, lo trovate anche online. Se avete voglia di imparare qualcosa di più sul libro prima, è possibile scaricare gratuitamente un'anteprima, okay, direttamente anche su Amazon. Se non lo trovate in giro, lo trovate o sul mio blog o sulla mia pagina Facebook. E posso approfittare, prima che riprenda la parola, volevo ringraziarti tantissimo per avermi invitato oggi e per aver permesso alla mia tigre di entrare anche qui nella Piacere biblioteca Archimede. Piacere Grazie mio. Mille. Sono solo nuvolette, che da questa settimana ha una sigla assolutamente meravigliosa e sublime. Prosegue, riprende dopo questa pausa di una settimana dovuta alla mia trasferta estera, riprende tutti i martedì sempre alle 15. L'appuntamento per la settimana prossima. Io sono Fulvio Gatti, Fulvio De Cazzo su Twitter. L'ospite di oggi era la meravigliosa Nazarena Fazzari. Grazie. In molti sensi, per carità, cioè, si può essere meravigliosi in molti sensi, non solo. Mi sono intampato. Mi è emozionato. Comunque, grazie a tutti per l'attenzione e arrivederci. Posso dirlo in cinese? Ah, certo, solo fantastico. Sì, sì, sì, assolutamente. Adesso 3, 2, 1, l'arrivederci in cinese, dai. Zaijian. Ok, fantastico. O versione più facile, bye bye. Ah, bella. E qui la dimostrazione che si sta semplificando anche il cinese. Ok, fantastico. Grazie, appuntamento alla prossima settimana. Sono solo nuvolette, chiude. Tutti qua giù. Alle spalle una storia probabile di un amore che non vale più. E poi verso sera li vedi, tutti a caccia una donna e via, che attraversano la notte a piedi.